Ti sei mai chiesto quante volte ci hai pensato? Quante cazzate prima di essere cambiato? O quante volte guardando dietro non vedi nulla perché non era quella la tua strada? E quante volte ti hanno preso per il culo? Quante volte in cui dovevi essere duro? A denti stretti, coi pugni chiusi, il respiro forte, ingoiare merda. Quante quelle andate storte? Ce n'è sempre di nuova, strappano il biglietto, poi si mettono in coda. Li guardo in faccia, li fisso negli occhi e li traduco. Avverto quella sensazione appena le saluto. Il peggio è che la gente che conosco, la stessa che fa parte del mio posto, quella cresciuta con la stessa voglia di voler lottare. Prima forti, adesso deboli, lasciati andare. Non capisco certi modi di fare, giustificati con prese di posizione alquanto strane. Per me non vale nel momento dove fare un cambiamento è minimale, più nessuno resta uguale. Sarà il mio modo generale analizzare le infinite situazioni in cui mi faccio circondare. L'unico dubbio che rimane mi fa male, che tra queste vite umane su chi potrò mai contare. Ragiono a volte complicato, a volte scrivo complicato, ricerco il significato, ogni parola in codice ed è collegata a un senso intrinseco e con un valore immenso. La mia coerenza mi sta presso e non molla un colpo, è diventata parte di me stesso. Mi rendo conto che qualcosa sta cambiando, si vede, non puoi cambiare canale, qui non siamo in tele. Sarà che diventando grandi ci si perde per mille o più ragioni, ma non serve non guardarsi in faccia e non capire cosa veramente ci ha divisi. Perché fatichi a salutare? Lascio che ancora un'altra foglia cada a terra e non tocca a me raccoglierla, io non sono in guerra. Dammi un motivo per lottare con persone che nemmeno se le pago mi verranno a ringraziare. E quali sono i veri amici? I sacrifici sono i fatti e non quello che dici. Quindi quanti ti rispettano, quanti ti conoscono, quanti ti leggono dentro e ti comprendono? E ne ho pochi e me li tengo, un paio di persone su cui fare veramente affidamento. Li ringrazio per quello che mi hanno dato, valori che col tempo non ho mai dimenticato. Adesso dimmi cosa devo fare, indicami tu la giusta strada dove camminare. Dimmi dove devo andare, con chi devo stare, su chi cazzo potrò finalmente mai contare. Dimmi se esiste il vero amore, dimmi se trovandolo non sentirò mai più questo dolore. Giurami che posso abbandonarmi senza avere la paura di cadere in un fatale errore. Dai, spiegami un po' quei sentimenti, gli atteggiamenti impertinenti e tutti gli inconvenienti. Dimmi perché offrendo cuore e anima a chi ami, spesso ti rimane solo rabbia tra le mani. A volte penso che sia io quello sbagliato, nato dove non dovevo, in un diverso stato. Poi riguardo indietro e vedo chi ha coperto il mio passato, dove chi ha cambiato il mondo ha sofferto e ragionato. Credo di vivere nel giusto, ma quel che vedo in giro mi dà sempre più disgusto. Non ci credo più, non sento più lo stimolo per crescere. Niente di quello che potrà essere sarà reso effettivo. Giuro a me stesso di restare, di guardare solamente il positivo. Non mi prendo in giro, c'è chi l'ha fatta al posto mio e non capisco la motivazione del suo gesto, ma fa lo stesso. Ti sei mai chiesto se con le persone a cui ci tieni sei del tutto onesto? Ogni tanto servirebbe che qualcuno ti stia a fianco e nel silenzio semplicemente rimanesse accanto. E a volte ho dato amore, ricevuto odio, visto chi doveva retrocedere sul podio. Ho dato gioia, ricevuto tristezza, preso solamente schiaffi e mai una carezza. Secondo te chi ha più ragione? Questo esame di coscienza o la tua semplice impressione? Puoi fidarti ciecamente di qualcuno? Vieni considerato come uomo? Oppure se nessuno...